baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. L'ennesimo attentato subito dall'impresa di Andrea Vecchio dimostra che la coraggiosa azione intrapresa dagli imprenditori siciliani contro la piaga delle estorsioni fa paura alla mafia. Vecchio è un imprenditore edile, presidente dell'ANCI di Catania, che da tempo resiste alle pressioni mafiose e ne paga le conseguenze. Vive sotto scorta ma non demorde ed è una figura simbolo per quegli imprenditori che hanno deciso di impegnarsi in prima persona nella lotta alla mafia. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Filippo Aureggi. Il Sole 24 Ore ha affidato a Carlo Trigilia un commento di prima pagina che ricorda appunto quello che viene definito il coraggio della denuncia, una rete di solidarietà alle imprese antimafia. Scrive ancora Trigilia: queste reazioni della criminalità dimostrano che siamo probabilmente a un momento di svolta molto delicato. Se gli imprenditori e quelle componenti purtroppo ancora minoritarie della società civile impegnati in questa azione si denuncia di concreta resistenza verranno lasciati soli, un'altra occasione fondamentale andrà persa per il Mezzogiorno. Una ricerca della Fondazione Chinnici ha stimato che percentuali tra il 70 e l'80% delle imprese pagano il PIL. Si va dai 60 euro mensili in media dagli ambulanti fino ai 17.000 euro delle imprese di costruzione impegnate in lavori autostradali. A Palermo il pizzo renderebbe oltre 170 milioni di euro. E questa è un'analisi che viene proposta da Carlo Trigilia sul Sole 24 Ore, che invece apre sul tema economico, macroeconomico, ma di grande rilievo, che già avete sentito nel GR: tagli record ai tassi europei, Sarkozy vara incentivi per 26 miliardi alle aziende francesi. Per la prima volta nella sua storia la Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso di interesse di riferimento di più di mezzo punto percentuale, portando dal 3,25 al 2,5 per cento. Il presidente Jean-Claude Trichet ha motivato la decisione con la situazione economica in continuo peggioramento. Sul Sole 24 Ore, come su molti altri quotidiani, c'è anche il tema forte della decisione di Giulio Tremonti via televisione di dire comprate bot, sono solidi, sono i più solidi del mondo. E Tremonti infatti dice: banche solide, bot e CCT, acquisti sicuri. E ancora però notizie dagli Stati Uniti. USA, persi 181.000 posti in un mese. Gli effetti della crisi globale si stanno moltiplicando sull'economia reale. Negli Stati Uniti sono stati oltre 181.000 i posti di lavoro persi nel solo mese di novembre. Da inizio anno i licenziamenti hanno superato quota 1,2 milioni. Beh, davvero preoccupante. E speriamo che questa ondata, come dire, non si presenti da noi in modo così virulento. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore, ma il tema oggi, il tema politico istituzionale più pesante è proprio quello della guerra, quella che viene chiamata guerra tra PM. Interviene il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora ci sono una serie di commenti a questo proposito. Uno di questi è di Giuseppe D'Avanzo, giornalista giudiziario, vice direttore della Repubblica e da sempre, diciamo, vicino ai magistrati e quindi in questo senso oggi molto più critico di altri rispetto a quello che sta avvenendo. Si può immaginare che Silvio Berlusconi, scrive Giuseppe D'Avanzo sulla Repubblica, se la goda come mai, se l'è goduta negli ultimi 14 anni di conflitto frontale con la magistratura. Mai Berlusconi e con Berlusconi tutti coloro che hanno in odio il controllo giurisdizionale hanno avuto una giornata di così vittoria, piena, gratificante gioia come questo giovedì 4 dicembre 2008. È una data da annotarsi perché sotto questa luna la magistratura come ordine potere dello Stato, autonoma e indipendente da qualsiasi altro potere, raggiunge il punto più basso del suo prestigio istituzionale, livelli infimi di attendibilità, di rispetto di se stessa, di ossequio alle regole. Questo scrive Giuseppe D'Avanzo sulla Repubblica e aggiunge: si infligge da sola, come in preda a una follia autodistruttiva, un'umiliazione che lascerà tracce durevoli, coinvolge nella mischia ingaggiati responsabilmente da due procure, Salerno e Catanzaro, anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano, chiede notizie e, se non segreti, atti dell'inchiesta che i due uffici, come bambini prepotenti e responsabili, si sequestrano e si controsequestrano accusandosi reciprocamente di reato. Questo leggiamo sulla la Repubblica, quindi una parola durissima a proposito della guerra che c'è effettivamente clamorosa tra due procure che insomma, forse almeno a me è capitato di fare giornalista giudiziario per anni e devo dire che una cosa così pesante di sequestri contro sequestri tra due procure non me la ricordo. Si scambiano avvisi di garanzia, il Quirinale conflitto senza precedenti, infatti Alfano al Partito Democratico dice: ora votate con noi la riforma. Il quotidiano La Repubblica però ci offre anche altre due cose tra le tante importanti. Una è Massimo Riva, che dice: chi mette paura ai bot people? Cioè il ragionamento di Massimo Riva è: mentre l'Italia è scossa da sconsiderate dichiarazioni di membri del governo sull'affidabilità finanziaria dello Stato, la Banca Centrale Europea ha tagliato di tre quarti di punto il costo del denaro. Ecco, il ragionamento di Massimo Riva si vede alla fine, è il riferimento al fatto che alcuni ministri prima hanno detto che forse non riusciamo a pagare, a finanziarci il debito, e poi chiedono di acquistare i bot. Dice: non è ai giornali, conclude Massimo Riva, dunque, che Silvio Berlusconi deve fare appello perché diffondono fiducia. È a se stesso e ai suoi ministri che deve, a cui deve chiedere di non seminare sfiducia, e credo che sia il riferimento a Sacconi, che gli era scappata una battuta sul rischio Argentina per l'Italia. Oggi invece però Giulio Tremonti dice: insomma, comprati i bot, sono sicuri, un po' quasi per riparare. E poi La Repubblica dedica addirittura un'intera pagina a Ilaria D'Amico, perché la D'Amico, prima telediva post-berlusconiana, manda in crisi il premier, l'Ilaria che fa male al cavaliere. Ed è Francesco Merlo che scrive: e già Berlusconi la chiama con sgomento quella là, la teme ben più di Veltroni e di Di Pietro, ordina sondaggi sugli spot di quella là, dice che bisogna fermare quella là e progetta di reagire come nella canzone napoletana: me ne piglio un'altra più bella, quella là, quella là. E subito bisogna ammettere che la signora quella là fa così male a Berlusconi perché sembra pensata dal miglior Berlusconi, con una prima grande differenza però, magari sarà un'impressione, ma Ilaria D'Amico passa per una che non ha prezzo. Eh sì, qui si parla di prezzo addirittura, insomma, si sa per esempio che durante Calciopoli anche questa Bruna, specializzata nel giornalismo sportivo, allora la chiamavano Lady Pallone, finì nel pozzo nero delle intercettazioni del rampollo di Moggi. Alessandro: ho speso 10.000 euro per portare la D'Amico a Parigi, ma mi ha dato buca. La signora quella là commentò con gli amici: o pago io o non ci sono soldi che bastano. Questo quindi un pezzo intero su Ilaria, la telediva emergente donna della televisione con grandi indici di ascolto, che dice è anche la più inaspettata e forse la più grave di insegnamenti, tutti racchiusi nello smarrimento berlusconiano, nella definizione quella là appunto che ricorda la pop dance e il successo internazionale di Gunther, delle sue Sunshine Girl. Insomma, la qualità, dice Merlo, di Ilaria D'Amico è di essere autonoma, indipendente e di non avere nessun punto di riferimento politico. Caro D'Alema, niente affondi, io non ti seguirò. Questa è l'intervista fatta diretta a Franco Marini dal quotidiano La Stampa. L'autore dell'intervista è Federico Geremica. Sapete di ieri della polemica aperta da Walter Veltroni, che ha detto, insomma, se qualcuno ha qualcosa da dire sulla mia leadership la dica subito, io sono anche pronto a farmi da parte. D'Alema dice, io lo direi se non volessi Walter, ma insomma Franco Marini probabilmente non si fida, ecco, e lancia questo messaggio ulteriore. Presidente Marini, lei dice di voler fare un'intervista ad adiuvandum del PD e di Veltroni, ma sono noti i suoi rapporti di stima e amicizia con D'Alema, come la mettiamo? E come vuole metterla? Io non vedo alcuna contraddizione tra le due cose. Con D'Alema mi sono trovato d'accordo molte volte. So che è una persona incapace di tenere dentro quello che pensa davvero e quindi se ha una convinzione profonda la tira fuori. Bene, ha detto e ripetuto ancora ieri di non avere alcun problema di cambio di leadership e io gli credo. Veltroni, del resto, lo abbiamo votato insieme. Io dico che ora occorre continuare la costruzione del partito e preparare le elezioni. Ad una verifica interna ci si andrà naturalmente dopo. Par di capire, insomma, che l'invito che lei rivolge a rinfoderare tutte le spade sia rivolto anche ad Alema. Bisogna dedurne che se tentasse un affondo in direzione lei non lo seguirebbe? Deduzione esatta. Io sono amico di D'Alema e ci stimiamo, ma non è che se uno imbocca una strada che a me pare sbagliata lo seguo, e a me parrebbe una strada sbagliata. Chiunque la indichi, chiedere un congresso oggi e discutere il segretario. Ecco, questo è il messaggio chiarissimo che Franco Marini, una componente del Partito Democratico, lancia a Massimo D'Alema, qualora Massimo D'Alema volesse davvero lanciare un affondo contro Veltroni. E sono tutte questioni interne al Partito Democratico e alla battaglia che è in corso al Partito Democratico. Intanto voglio dire, non posso evitare di leggervi La Iena, alias Riccardo Barenghi, che sul suo quotidiano Corsivetto sulla Stampa scrive: D'Alema, se volessi che Veltroni lasciasse la carica di segretario, glielo direi direttamente. Nel frattempo l'ha detto a tutti gli altri. Il quotidiano La Stampa apre anche sul tema forte, guerra dei PM, interviene Napolitano e c'è una considerazione, un editoriale molto forte anche questo di Carlo Federico Grosso, che scrive: la situazione è senza precedenti per il groviglio delle competenze interessate, per l'importanza della posta in gioco, per i possibili risvolti politici, soprattutto per il rischio di perdita di credibilità delle istituzioni giudiziarie. L'altro ieri avevamo letto con stupore misto ad interesse dell'iniziativa della Procura della Repubblica di Salerno nei confronti dei colleghi di Catanzaro, indiziati per un asserito complotto organizzato contro dei magistri. Il sospetto di tale procura era che taluni magistrati e taluni politici lo avessero ordito contro il giovane sostituto procuratore allo scopo di bloccare o deviare alcune inchieste che coinvolgevano personaggi eccellenti. Soltanto ieri le contromosse di Catanzaro, la procura generale di tale sede giudiziaria ha reagito indagando a sua volta i colleghi di Salerno per abuso d'ufficio ed interruzione di un pubblico servizio e disponendo il sequestro dello stesso materiale sequestrato il giorno precedente a Salerno. Un'iniziativa a sua volta sconcertante, sì, è forse la parola giusta utilizzata da Carlo Federico Grosso sul quotidiano La Stampa. A questo proposito, rimanendo nel tema, voglio segnalarvi, il Riformista titola: toga contro toga, le procure di Salerno e Catanzaro si combattono a colpi di perquisizioni e avvisi garanzia. E poi vi è una presa di posizione del Riformista, una nota non firmata, la nota stonata di Di Pietro: tutti sono d'accordo, quello che sta avvenendo tra le procure di Salerno e Catanzaro è senza precedenti, è una situazione gravissima, si indaga perfino sul CSM e sul suo vicepresidente, dunque non c'è altro modo per rimettere ordine in questo disastro, in questa guerra di toghe contro toghe, che l'intervento del capo dello Stato, il quale presiede il CSM. L'unico che non l'ha capita e che critica l'iniziativa del Quirinale è Antonio Di Pietro, il quale contesta il modo e il tono usato e sostiene addirittura che così si rischia la criminalizzazione preventiva e preconcetta dell'attività d'indagine che sta svolgendo la Procura di Salerno. Questi sono i momenti quelli in cui viene in causa la responsabilità istituzionale, che si capisce di che pasta sono fatti i politici. E se il PD non l'avesse capito prima, ora sa perché Di Pietro non può essere né oggi né domani un suo alleato. Questo scrive il quotidiano Il Riformista, ribadendo una posizione. E poi c'è ancora un Mancino, che tristezza, Nicola Mancino è un galantuomo, scrive il direttore del Riformista Antonio Polito, credo di poterlo dire senza tema di smentite, è uno dei pochi politici italiani cui sia rimasto attaccato un forte senso dello Stato e delle istituzioni, da Prima Repubblica, tanto vituperata che un giorno la rimpiangeremo, un uomo ancien régime, con quell'accento così meridionale ma per bene e integro, al telefono mi risponde con una voce velata di tristezza, più per sé, per le sorti della magistratura, in difesa della cui indipendenza e autonomia io lavoro dal lunedì al sabato. Sono amareggiato, mi dice, rinfrancato certo dalla solidarietà affettuosa che ho avuto oggi al CSM e anche dall'esterno, da politici come Di Pietro. E però molto amareggiato. Certe volte mi viene il dubbio che ci siano magistrati che meritano di essere tutelati e magistrati che non lo meritano. Queste le parole molto anche forti di Mancino al quotidiano Il Riformista. E ora, per cambiare argomento, torniamo a un argomento che abbiamo trattato ieri e che, come dire, il quotidiano Libero ci impone da qualche giorno, e cioè l'abolizione delle province. C'è una, diciamolo così, una differenza di trattamento su questo tema, perché mentre Libero parla di prima vittoria a proposito della sua campagna sull'abolizione delle province, il Corriere della Sera, e per la precisione Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, firma un articolo dal titolo "Le promesse passano, le province restano". Ora andiamo a vedere di cosa si tratta. Intanto, abolire le province, prima vittoria. Tremonti si impegna, per cominciare blocchiamo quelle nuove, sono 25. Marcegaglia, Confindustria, si schiera con Libero, la battaglia di Montezemolo. Basta nuove province, l'impegno esce direttamente dalla bocca di Giulio Tremonti, scrive Gianluigi Paragone, negli studi di Porta a Porta, sollecitato da Oscar Giannino. Alleluia, con questa mossa il governo non resta con il cerino in mano. È pochino? Per non essere disfattisti diciamo che è un qualcosa, un inizio, un antipasto, vorrà dire che le portate succulente arriveranno dopo, ci contiamo. Certo, Libero non si può fermare all'inizio della salita, l'obiettivo è ben più ambizioso, il traguardo non può essere avvicinato per amicizia, saremmo scorretti. I lettori chiedono il superamento totale delle province per poi salire di un livello e sollecitare ancora altri cambiamenti, tuttavia non si può negare che qualcosa si è mosso, la sordina è stata tolta e il palazzo ha acceso i motori. Ringraziamo, questo scrive Gianluigi Paragone su Libero. Poi abbiamo anche un pezzo di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che dice basta con gli sprechi, lo Stato va riformato, un paese moderno che voglia competere con i mercati di tutto il mondo, che voglia mantenere ai suoi cittadini un livello accettabile di benessere, non può più permettersi una burocrazia paralizzante, moltiplicatrice di costi e di inefficienze, soprattutto quando si ha il terzo debito pubblico più alto nel mondo. Confindustria chiede da anni una profonda riforma della macchina dello Stato, una semplificazione istituzionale che tagli i costi della politica, che elimini i privilegi e riduca i troppi livelli decisionali, che restituisca ai cittadini più potere. E questa, tra questa cosa, naturalmente Emma Marcegaglia ci mette appunto le province, e questo è quello che fa felice il quotidiano Libero, dice qualcosa si muove. Adesso diamo la linea alle notizie sul traffico, ma vedremo che diversa opinione ha di questo andamento, di questa campagna, un giornalista come Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Come vi dicevo prima dell'interruzione, il Corriere della Sera affida Gian Antonio Stella questo servizio. Le promesse passano, le province restano. La resistenza della Lega contro l'abolizione sbandierata in campagna elettorale. 108 anni dopo la prima proposta di abolire le province presentata dal deputato Gesualdo Libertini, che le marchiava come enti perlomeno inutili, destra e sinistra dicono che occorre ancora pensarci su. Auguri, dice uno studio dell'Istituto dell'Istituto Bruno Leoni, che costano oggi il 65% in più di 8 anni fa. Amen. Sono in troppi a volerle tenere. La Lega poi. E c'è una pagina intera, pagina 17 del Corriere della Sera, dedicata a questo caso. Costoso, inutili, incancellabili. Le finte promesse sulle province. Berlusconi disse le aboliremo, ma la Lega dice non si toccano. Frena anche il Partito Democratico e Tremonti aggiunge, è stato riferito poc'anzi su Libero, è già tanto evitarne di nuovo, e qui insomma il tono è meno sicuro di come veniva presentato su Libero. Tra altre cose Gian Antonio Stella fa proprio riferimento a Libero che rilancia la campagna per sopprimere gli enti territoriali. Dopo il voto i TG filogovernativi titolarono abolite 9 province, ma erano solo state ribattezzate aree metropolitane, quindi non abolite, anzi si parla di farne di nuovo. Qui bisogna capire come davvero andrà a finire. E Gian Antonio Stella riprende in pieno la campagna di Libero, ma è più pessimista sull'esito possibile. Io volevo anche segnalarvi sul Corriere della Sera altre 2 questioni, rapidamente. Intanto Pierluigi Battista, che parla di allarme rosso. E che cos'è l'allarme rosso? È la questione morale che tocca la sinistra. Questo secondo Pierluigi Battista. Espresso, l'Espresso è un settimanale prestigioso che non ha mai camuffato la sua anima progressista e di sinistra. Per questo assume un significato particolare quel titolo shock, Compagni S.P.A., che campeggia sulla copertina del suo ultimo numero, quello infatti in edicola, organo di punta della polemica anti-berlusconiana, allergico culturalmente e antropologicamente a tutto ciò che nell'Italia e nel mondo porti con sé un sentore di destra. Il giornale, ora diretto da Daniela Maui, ha scelto di non chiudere gli occhi sulle brutture che deturpano le vicinanze di casa. Recentemente ha rivelato i dati che denunciano la deriva oligarchico-corporativa in cui appare prigioniera la casta sindacale. Ora denuncia gli intrallazzi, specchio di un invasivo e arrogante potere dei comitati d'affari in cui si stanno inabissando le giunte di sinistra, da Napoli a Firenze, da Genova a Perugia, da Crotone a Trento, dall'Aquila a Foggia. Un esempio raro di giornalismo, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, Libero, schierato ma refrattario all'omertà di schieramento di parte, ma capace di non occultare nella foga della battaglia politica i vizi che albergano nei partiti idealmente più vicini. Quindi, insomma, l'allarme rosso è proprio rosso col colore del centro-sinistra, insomma, perché qui ci sarebbe, dice Pierluigi Battista, l'allarme del pericolo della corruzione anche qui. Ora, altra cosa ve lo segnalo del Corriere della Sera, è il paradosso italiano. Alberto Quadrio Curzio, che è stato peraltro intervistato da non molto da Radio 24, scrive: mentre prosegue la crisi economica di origine americana e con ricadute gravi su tutto il mondo, Europa compresa, in Italia ci si interroga su almeno 2 questioni. Come può il nostro paese contenere la crisi? La Unione Europea, di cui siamo paese fondatore e membro, sta facendo tutto il possibile? Sono 2 domande impegnative alle quali tentiamo di dare alcune risposte, senza la pretesa di dire a chi governa il da farsi. L'Italia si trova, dice Alberto Quadrio Curzio, in una situazione paradossale. È il paese industriale che ha avuto meno contraccolpi dalla crisi ed è il paese che corre in prospettiva più rischi. Questa è la tesi di Alberto Quadrio Curzio sul Corriere della Sera. Ora, se noi dal Corriere ci spostiamo sul quotidiano Il Giornale, troviamo intanto un titolo più diretto, insomma: vi spiego perché adesso conviene comprare BOT e CCT. I consigli di Tremonti, Italia solida, 3 motivi per cui i nostri titoli sono un affare. E ci sono una serie di consigli, per l'appunto. L'investimento migliore in BOT e CCT italiani: la situazione del nostro paese è solida, a rischio Argentina alla fine della crisi, non per noi. Quindi è in qualche modo una replica indiretta al ministro Sacconi, che si era fatto scappare la parola Argentina, il rischio Argentina. Chi ha scritto che rischiamo il crack è inqualificabile, soltanto da noi capitano queste cose. Questo scrive Giulio Tremonti, che però, come dire, per esempio, esempio Quadrio Curzio dice, paradossalmente siamo i più soldi ma siamo quelli che rischiamo di più. Invece l'intervista a Maurizio Sacconi, che in qualche modo rassicura dal pericolo della disoccupazione, chi perde il posto di lavoro non verrà lasciato solo, dice il titolare al welfare, avremo risorse più che sufficienti per i sussidi, raddoppiati i fondi per gli ammortizzatori sociali, questo il titolo di Claudio Borghi, sempre sul giornale, sulla prima pagina, ipotizza e riapre un tema che è stato oggetto di scontri sociali formidabili. E se facessimo la riforma delle pensioni, scrive, l'Italia è un paese fantastico, nel bel mezzo di una tempesta finanziaria senza precedenti, invece di occuparsi della parete della casa, ci si snerva in furiose discussioni. Facciamo un esempio, quasi il 40% della spesa corrente statale è dato da due sole voci, pensioni e interessi passivi sul debito, per un totale vicino ai 150 miliardi annui. La cifra è talmente iperbolica che una differenza minima porta a oscillazioni enormi. Dice, perché non occuparsi dunque delle pensioni? Questo il Claudio Borghi sul quotidiano Il Giornale. L'Unità riporta intanto una... una frase di Enrico Berlinguer che è molto adatta oggi, così almeno sembra. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. E il risultato è drammatico. Tutte le operazioni che le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito o della corrente o del clan cui si deve la carica. Queste sono le dichiarazioni di Enrico Berlinguer che vengono riportate in prima pagina sull'Unità, quasi come una chiave di lettura di quello che sta avvenendo oggi. Purtroppo però pare che, almeno così stando a quello che dice Battista, che la corruzione e come dire, l'occupazione dei partiti riguardi anche i partiti del centro-sinistra, dove sono nelle loro istituzioni. Il quotidiano Foglio invece parla di Prestigiacomo dice no a Tremonti. E in che senso? Il taglio degli sgravi è inaccettabile, coinvolgerò il premier Berlusconi. E dice ancora il ministro Prestigiacomo, dice io ho visto un atteggiamento molto positivo in Giulio Tremonti, ma adesso annuncia, presenterò al governo un emendamento a mia firma affinché gli sgravi restino anche per gli anni successivi al 2008. Non intendo fare passi indietro su questa materia, chiederò il coinvolgimento personale del presidente Berlusconi. Abbiamo risorse limitate, è vero, e per questo abbiamo tutti faticosamente preso atto dei tagli orizzontali imposti ai ministeri, però cancellare un intervento positivo è francamente inaccettabile. Questo dice il ministro Prestigiacomo. Si attendono quindi nuovi contrasti su un tema delicato come questo. Il manifesto chiama la svolta di Salerno. Ora la svolta di Salerno, per chi non lo sa, fu la svolta di Togliatti. Qui invece la svolta di Salerno è relativa dallo scontro tra procure al caso istituzionale. Napolitano chiede agli atti della procura di Salerno, che accusa quella di Catanzaro di aver sciolurato dei magistris. Dalla Calabria si risponde con 7 fascicoli su altrettanto toghe campane. CSM nella bufera, il potere delle Iene, Andrea Favozzi, e un Vauro vignettista, Veltroni, basta veleni, che ho finito i gatti, dice questa vignetta crudelissima. E infine il Messaggero, solo il titolo, il titolo di della loro rubrica, cambiano il contatore del gas e gli arriva una bolletta da 5.000 euro, un altro dei casi denunciati dal Messaggero. E con questo io ho finito il mio tempo, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento domattina.